e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Lo stai facendo con tutti sto questi? Sto agitando un po' le mani, sto facendo ridere un po' Carmelo, voglio tirarlo un po' su. Dimorale, anche Marco, che ero... depressi, no, no. Facendo la trasmissione con noi è impossibile. Però quando ci guarda è contenta la Laura, felice perché venerdì, Marco oggi aveva sonno, però gli abbiamo dato il caffè. E quindi abbiamo dovuto rafforzare la dose di caffeina mattutina. Ho preso il succo di mirtillo. No, no, si è un ma po', non lo ha prende un po' alleggerito più la dieta questa settimana, ragazzo. Lo devo un attimo riportare sulla giusta via. Lascialo stare, che c'è. Ma fallo sprofondare di cibo, va che è giovane. Senti un po', oggi l'architetto sarà strafelice perché proponiamo una puntata nella sua modalità preferita, quella con tanti argomenti, tanti approfondimenti. Io ho un piatto davvero ricco, con tante porzioni, come direbbe Ongaro. Allora, ho lo sciopero dei professionisti domani a Roma, architetti, ingegneri, avvocati, notai, chi più ne ha più ne metta. E ci faremo raccontare le ragioni di questa protesta. Gli architetti non scioperano. Lunedì poteva essere pronto lo sciopero dei centri di assistenza fiscale che non volevano più predisporre gli ISEE, invece la protesta è stata scongiurata, ma noi ne parliamo lo stesso perché comunque è sempre lì che aleggia come spettro possibile. Abbiamo anche un dirigente IMSS che ci racconta come sono riusciti a risolvere la situazione. E poi parleremo invece di noi quando siamo alla guida, tutte le nostre cattive abitudini. Attenzione perché tra un po' il codice della strada sarà più severo e quindi attenzione se ci toglieranno la patente perché giustamente o andiamo in giro sempre con questo benedetto telefonino attaccato alle orecchie e tante altre brutte abitudini. Ci sono anche delle notizie non vere che circolano, faremo un po' di chiarezza con il nostro Maurizio Caprino. Allora invece anch'io voglio conquistare l'architetto e gli sfodero un bel burioni con i vaccini dopo la Lorenzin. Chiappalo. Poi parliamo di macchie, non sono tutte uguali, macchie senza paura, e poi di mani. Ecco. Va bene? Esatto, se facciamo la lista della spesa, qua abbiamo almeno 8-9 argomenti e anche di più, ci metto anche la borsa che oggi è molto positiva a Piazza Affari. Direi che adesso possiamo partire però. Sì, eccola qua, la canzoncina che ci introduce il nostro primo approfondimento di oggi. Allora domani, sabato 13 maggio, architetti, avvocati, ingegneri, medici e tante altre categorie manifestano a Roma in Piazza San Giovanni per chiedere al Parlamento, al legislatore, una norma sul giusto compenso. La manifestazione è nata anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 dicembre dell'anno scorso che ha affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili. Cosa vuol dire tutto questo? Per spiegarlo bene ai nostri ascoltatori abbiamo interpellato questa mattina uno degli animatori di questa protesta di domani, il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Alessandro Ridolfi. Buongiorno architetto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Noi abbiamo un po' preso in giro la categoria all'inizio, ma per tutte altre ragioni, presidente, poi magari gliela spiego in privato. A quanto pare ci sono determinate categorie di ascoltatori che pensano che la nostra trasmissione ancora non sia particolarmente chiara su come affrontiamo gli argomenti, e fra questi pare che ci siano gli architetti, per cui giochiamo un po' su questo, non se ne abbia male, naturalmente solo un modo folcloristico per iniziare la trasmissione. Prendiamo invece molto seriamente la vostra manifestazione di protesta di domani, perché come dire, la dobbiamo spiegare bene ai nostri ascoltatori. Anche sul Corriere della Sera se ne parla stamattina: avvocati e architetti alla guerra dei minimi, liberi professionisti sabato in piazza chiedono misure contro i compensi al ribasso. Allora, che cosa vi ha uniti insieme anche a tutte le altre categorie professionali? C'è stato un evento scatenante, presidente? Cosa vi ha fatto così mettere in piedi l'idea di questa manifestazione di domani? Dunque, la manifestazione di domani, come diceva lei, è una cosa molto seria, è un appuntamento unico nella storia, almeno delle professioni. Tutte unite le professioni, architetti, avvocati, ingegneri, ma non solo, odontoiatrici, geologi, tutte le attività hanno sentito il bisogno di unirsi insieme per lanciare un messaggio forte. Un messaggio che è volto a far comprendere alla collettività l'importanza del servizio professionale di qualità. Bisogna far crescere ai cittadini la consapevolezza, la necessità e l'importanza del lavoro di qualità. Questi sono gli obiettivi, le voci dei professionisti per chiedere al governo l'introduzione di una normativa sul giusto compenso e per la qualità delle prestazioni. E tanti altri temi, quali l'equità fiscale, la previdenza e soprattutto però per garantire ai cittadini servizi sicuri e eccellenza e l'eccellente qualità, certo, delle prestazioni. Presidente Ridolfi, lei lo sa bene, alcune professioni sono identificate nell'immaginario collettivo come quelle che vivono in una condizione, posizione prestigiosa, le caste e quant'altro, ma queste etichette ormai non corrispondono più a, naturalmente a questo che, dicevo, circola nell'immaginario collettivo. I redditi sono molto bassi, spesso, per non parlare poi di tutta quella giungla dell'ingresso nel mercato del lavoro di chi appartiene appunto alla vostra categoria. Dopo la laurea, prima di diventare un professionista a pieno regime, appunto, ci mette anni ed anni. Anche questa parte ci sarà nella vostra manifestazione di domani? Anche una considerazione, un pensiero su questo? Assolutamente sì. Centrale il motivo che ci ha portato proprio a fare questo gesto, come diceva, umile, andare in piazza, anche una categoria che non era mai scesa così, a dimostrare proprio il senso di difficoltà che oggi tutte le professioni vivono. Pensate soltanto che il reddito di un avvocato è sceso del 22% e di un architetto del 15%. Sono categorie che sono state fortemente, diciamo, penalizzate. Il nostro paese, un po' di anni fa, forse anche giustamente, ha scelto la via della liberalizzazione, ma questa si è tradotta nelle, diciamo, nelle professioni, in un sistema che ha svilito profondamente la nostra categoria, tanto che abbiamo un compenso medio di architetti italiani che è sotto il 20.000 euro lordi l'anno, quindi un prezzo, diciamo, fortemente, un compenso fortemente sotto la soglia di povertà, per così dire. Ma soprattutto lo dobbiamo al futuro dei nostri giovani, perché sempre di più, proprio anche per questo motivo, per la mancanza di dignità, per mancanza di riconoscimento professionale, tendono sempre a programmare il loro futuro all'estero. Noi dobbiamo fare questo per riportare le nostre eccellenze, a ridare prestigio al nostro paese. Senta, Presidente, ci spiega come, secondo nella vostra idea, dovrebbe essere individuato il livello di questo equo compenso? E seconda considerazione, lei è un architetto, ma prima parlava degli avvocati e di quanto siano in caduta libera i fatturati, appunto, chiaramente parliamo poi di medie nazionali, noi viviamo a Milano e abbiamo impressioni ben diverse, naturalmente questa è una città dei grandi studi legali che operano anche in un settore, quello finanziario, che è molto remunerativo e redditizio, ma quella categoria lì in particolare, poi dovremmo sentir loro, viene spesso accusata di essere molto folta, perché a Roma ci sono molti più c'è lo stesso numero di avvocati che c'è in tutta la Francia, quindi c'è sempre questa similitudine e paragone. Quindi anche rispetto a queste contestazioni, come rispondete? Non so se al numero di architetti possiamo portare la stessa proporzione, però ci spiega il tema dell'equo compenso esattamente voi come vorreste che questo venga elaborato, insomma. Allora, tanto per darle un esempio degli architetti, solo l'Ordine degli Architetti di Roma ha quasi diciamo un numero quasi uguale a quello degli architetti francesi, poco di meno, mi sembra che sono intorno ai 30.000, solo a Roma abbiamo quasi 19.000 architetti, quindi è un numero elevatissimo come quello degli avvocati. La nostra idea è innanzitutto quella di riportare all'attenzione, quindi, la necessità di ricostituire innanzitutto delle diciamo delle attività professionali, di avere delle diciamo proprio delle dei parametri per le attività professionali, cioè individuare delle attività professionali devono essere, diciamo, coniugate con dei parametri, con dei giusti compensi che possano dare valore alle attività che i professionisti svolgono. Quindi reintrodurre l'idea di parametri, che sono dei parametri minimi, dei parametri di riferimento che lo stesso British Council dice che sono, lo dice per le tariffe che ancora esistono in Germania, sono anche utili di orientamento per tutti i consumatori. Quindi in sostanza la libera contrattazione, dite voi, non è più sufficiente, bisognerebbe in ogni caso mettere dei parametri quantomeno minimi di riferimento per remunerare adeguatamente queste categorie. Va bene, sì, 30 secondi. La libera contrattazione ovviamente deve rimanere, ma comunque devono esistere anche dei minimi, diciamo così, dignitosi e di orientamento per dare senso proprio dell'attività professionale che ogni professionista svolge. Ridolfi, grazie per essere stato con noi, buona manifestazione per domani, torneremo sicuramente a parlare della situazione di questi professionisti appartenenti a tantissime categorie, soprattutto dal punto di vista di chi entra in questo mercato del lavoro che fa moltissime difficoltà, spesso lo sappiamo bene, giovani avvocati, giovani architetti, giovani ingegneri che operano a pieno regime negli studi professionali non vengono adeguatamente remunerati, quando vengono pagati, perché tante volte fanno degli stage interminabili, forse anche quelle un aspetto che porta terribilmente a ribasso a volte la qualità del lavoro oltre che le condizioni reddituali di tutti. Detto questo ci fermiamo, c'è il traffico, poi andiamo alla scampata sospensione del servizio ISEE da lunedì, vi racconteremo le novità. Cuore e denari. E abbiamo ancora la coda dei commenti rispetto al primo tema che abbiamo affrontato e molti ascoltatori insomma richiamano anche l'attenzione sul fatto che molti professionisti chiaramente non fatturano tutto, vengono pagati in parte in nero, avvocati e architetti, dice un ascoltatore, se guadagnate poco significa che siete troppi, ci sono tanti temi all'ordine del giorno dei quali le categorie interessate sono pienamente consapevoli e anche di questo probabilmente si discuterà alla manifestazione di domani a Roma. Detto questo, altro tema, si cambia adesso argomento. CAF, centri di assistenza fiscale, sul piede di guerra. Ne avevamo già data notizia qualche giorno fa, quando avevamo anticipato che i centri di assistenza fiscale di tutta Italia erano pronti da lunedì prossimo ad incrociare le braccia e a dare vita allo sciopero del servizio ISEE a tempo indeterminato. Quindi niente più rilascio dei documenti che certificano appunto la situazione reddituale delle famiglie, in attesa di avere risposte dall'INPS e dal Ministero del Lavoro sul rinnovo della convenzione scaduta lo scorso 31 dicembre. A quanto pare però lo sciopero a questo punto è scongiurato, visto che proprio ieri in tardo pomeriggio è arrivata la notizia che l'INPS ha firmato la convenzione. E quindi pronti, freschi sulla notizia, Mauro Soldini, uno dei due coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF, lo salutiamo. Soldini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E naturalmente le notizie anche dalla sponda IMSS ce le fornisce questa mattina, un gradito ritorno quello della dottoressa Maria Grazia San Pietro, dirigente generale ammortizzatori sociali, benvenuta, grazie. Buongiorno. Eccoci qui, dottoressa San Pietro, ci sente? Sì, vi sento. Eccoci qua, perfetto, grazie. Allora, tra l'altro, se qualche ascoltatore volesse al volo chiederci qualcosa sul rilascio ISEE, se è andato ad un CAF, magari proprio in questi giorni aveva chiesto qualche informazione e aveva avuto notizia di questa agitazione dei centri di assistenza fiscale, se ce lo vuole raccontare all'800 24 00 24, siamo pronti come sempre a raccogliere queste testimonianze. Soldini, ci fa un po' di punto della situazione, come mai eravate arrivati? Appunto a questo stato di agitazione poi scongiurato, ci spiega esattamente in che cosa consiste il fatto che esista una convenzione per i centri che abilita i centri di assistenza fiscale a rilasciare appunto questi documenti così importanti per i contribuenti italiani, perché spesso sono i documenti di partenza anche per fare delle complete dichiarazioni dei redditi o soprattutto per avere diritto a molte prestazioni sociali. Soldini. Sì, esattamente, sono molto utili, sempre di più lo saranno, come strumento di equità nell'accesso ai benefici assistenziali e sociali, non hanno a che fare con la dichiarazione dei redditi, ma c'è una crescita esponenziale direi, nel 2015 col nuovo ISEE molto più strumento di equità, perché dà la possibilità di dichiarare effettivamente la ricchezza o il livello purtroppo di povertà molto più spesso, e dal 2015 c'è stata una crescita più o meno di 4 milioni e mezzo nel 2015, di 5 milioni e 300 mila richieste nel 2016 e ci aspettiamo una crescita anche quest'anno, soprattutto dopo gli interventi del governo lodevoli sulla povertà. Noi dal 2015 a oggi non avevamo firmato una vera e propria nuova convenzione, scaduta appunto alla fine del 2015, nel 2016 abbiamo avuto delle proroghe con difficoltà perché già nel 2016 il budget a disposizione dell'istituto non era sufficiente. Ma ci faccia capire, per farlo capire a mia zia che questi temi magari non li mastica, perché serve una convenzione con l'INPS ai CAF per rilasciare ed elaborare questi documenti? Allora, intanto l'INPS ha per legge la possibilità di convenzionarsi con i CAF. Per come è oggi organizzato il sistema, l'INPS non è in grado di assistere questi milioni di persone, non lo fa, in verità non l'ha mai fatto. Abbiamo questo servizio in piedi da oltre 10 anni, l'hanno fatto sempre i CAF, sono organizzati in maniera capillare, danno un servizio anche a un costo contenuto, poi su questo ci siamo misurati parecchio con l'istituto e la dottoressa San Pietro, che saluto, lo sa, ma di fatto i CAF hanno sempre creato una condizione di sostegno e anche, se vogliamo, di risparmio rispetto a costi magari più alti che si potrebbero creare o che si potevano creare nell'attività interna. E questo quindi è sempre stato. In verità però con il nuovo ISE del 2015 sono aumentati gli adempimenti e quindi diciamo che non sono stati più sufficienti i compensi, aumentando ovviamente le richieste e rimanendo fermo il bilancio siamo andati in difficoltà. L'anno scorso l'INPS è intervenuto alla fine dell'anno con il Ministero del Lavoro per sanare e risolvere la situazione, ce l'abbiamo fatta, quest'anno non ce l'aveva fatta fino a ieri, perché noi ovviamente ci trovavamo stretti rispetto a ciò che era il bilancio, anche l'INPS ci si trovava stretto e abbiamo trovato alla fine un accordo che ci permette non di completare probabilmente tutto l'anno, ma di arrivare a un completamento di circa di 5 milioni e 100 mila di SU, che poi aprono, lasciano comunque aperto un problema. Esatto, perché voi calcolate, lo diceva anche prima, anche alla luce delle nuove misure del governo, che almeno quest'anno sarà necessario rilasciare oltre 6 milioni di ISEE. Dottoressa San Pietro, sarete eventualmente pronti a fronteggiare una nuova potenziale emergenza se i CAF decideranno di reincrociare le braccia o quantomeno di minacciarlo? Ci commenta dal punto di vista IMSS questa situazione e soprattutto come siete poi arrivati alla decisione di ieri sera di firmare l'accordo quadro per il rinnovo della convenzione sulla gestione dei servizi relativi agli adempimenti di cui abbiamo parlato fino ad ora. Noi abbiamo tenuto in questi mesi coi CAF un tavolo sempre aperto e un confronto veramente molto serrato. Io penso che ci sia una cosa, e che la vera notizia per INPS in questa giornata sia questa: l'INPS voleva continuare ad assicurare il servizio a tutti i cittadini in una situazione di gratuità. In realtà l'accordo raggiunto ieri sera consente questo. L'istituto ha fatto uno sforzo perché ha reperito ulteriori risorse proprio nella logica di andare incontro ai cittadini, però non bisogna dimenticare, ma questo veramente a beneficio degli italiani e di tutti quelli che ascoltano la trasmissione, che l'INPS sostiene oggi per i SEE con sue spese di funzionamento, quindi sono fondi dell'istituto e spese di funzionamento dell'istituto, una spesa ai CAF, cioè corrisponde ai CAF i compensi per i SEE, quando i SEE non serve solo ad INPS, ma serve ad ottenere una pluralità di prestazioni, solo alcune delle quali corrisposte da INPS. Le altre sono corrisposte da amministrazioni locali, si ottiene il bonus elettrico, si ottiene il bonus acqua, si ottengono una quantità di bonus. Quindi insomma lo sforzo dovrebbe essere fatto da una pletora di soggetti. Sì. Esatto, quindi in ogni caso la cosa meno bella è che venga sostenuto in questo momento dai cittadini, soprattutto in considerazione del fatto che ISEE in questo momento, anche grazie alle misure del governo che Salvini ricordava, vanno verso fasce sociali più deboli, però la cosa più importante è che il servizio è rimasto gratuito ed è in capo ad INPS, però il problema va sicuramente affrontato, certo, perché si tratta di tanti milioni di euro che vengono sottratti ad altre finalità. Per quello che mi chiede, nel caso in cui ho 20 secondi di tempo, purtroppo alla soglia, dovremo organizzarci. Faremo ogni sforzo per organizzarci sempre nell'interesse dei cittadini, a cui vogliamo continuare ad assicurare questo servizio nel migliore dei modi possibili. E insomma, la notizia è però che da lunedì si può continuare a rivolgersi, ci si può continuare a rivolgere ai centri di assistenza fiscale, che l'ISE lo rilasceranno regolarmente grazie al rinnovo della convenzione con l'INPS avvenuto proprio ieri sera. Grazie a Mauro Soldini e Maria Grazia San Pietro su questi temi sempre molto popolari tra i nostri ascoltatori. Torneremo al più presto, fra un po' parliamo di auto. Nicoletta, intanto io mi vado a sentire il giornale radio. Vieni andiamo con me, andiamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. UPMCchianciano.it. Cuore e denari. Allora, attenzione, soprattutto tutti coloro che si stanno mettendo in viaggio, magari oggi non turbati dalle condizioni meteo non proprio brillanti, a meno qua al nord, perché al centro Italia, dove mi dirigerò io più tardi, invece le cose dovrebbero andare meglio. Perché tu porti il sole. Io porto il sole, 24 ore, naturalmente anche il giornale mi porto dietro. Allora, attenzione, perché sono tutte le informazioni, quelle che stiamo per darvi, che vi dovete bene incidere in testa. Ritiro immediato della patente per chi usa il telefonino mentre guida, divieto di sorpassare ciclisti se c'è uno spazio laterale minore di 1,5 metri e avvio, dopo 5 anni di false partenze, dei controlli automatici per scoprire più facilmente chi circola senza assicurazione auto, senza RC auto. Questi sono i 3 punti principali su cui il governo sta lavorando per modificare il codice della strada, che potrebbero essere inseriti già come emendamento alla manovra fiscale di fine aprile, cioè in sede di conversione della legge appunto 150 del 2017. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, pronto. Buongiorno. A darci tutte queste novità, soprattutto pronto a dirci che cosa partirà per primo più o meno alla luce delle intenzioni del governo, perché qua il tema è che in questi giorni ne abbiamo sentite di ogni, come diciamo noi, sì, a Milano, no? Sembrava che praticamente il ritiro della patente per l'uso del telefonino fosse già pronta ad entrare in vigore nel giro di 3 minuti. Ma su WhatsApp, ecco, qualcuno ha scritto che andava in vigore dal 1 maggio, nulla di più falso, l'enorme, ecco. È solo un esempio delle fake news. Le fake circolo. News, bravissimo, mi hai tolto la parola di bocca, che adesso è diventato l'altro grande argomento di discussione di tutti. Detto questo, 800 24 00 24, vi è raggiunta notizia di queste novità in vista per il codice della strada, forse con delle tempistiche non del tutto veritieri, ma in realtà il tema importante è: siete consapevoli di avere delle brutte e pericolose abitudini quando siete alla guida, l'uso del cellulare, ma non solo, in realtà usandolo non è che lo potete fare con leggerezza solo perché adesso non ritirano la patente, perché in realtà sanzioni ce ne sono, e come, Maurizio? Sì, sanzioni ce ne sono 161 euro, vi tolgono 5 punti, vi tolgo 5 punti, e poi in caso di recidiva nell'ambito di un biennio, allora sì, lì che verrà sospendono la patente. Poi vabbè, su queste recidive i controlli sono piuttosto faticosi, perché si sa che in Italia quando si ha a che fare con le banche dati si intrecciano poteri piccoli, grandi, eccetera, per cui i controlli sono sempre un po' così, però comunque le sanzioni sono queste, ma soprattutto vengono comminate in che maniera? Nel senso, deve esserci un accertamento diretto dell'infrazione? Sì. L'automobilista che ha il cellulare in mano deve essere fermato e quindi gli deve essere contestato subito? Preferibilmente sì, nel senso che essendo un'infrazione che ovviamente richiede di vederci molto bene, bisogna andare a mettere gli occhi dentro un abitacolo, dire che non sono riuscito a fermare perché non potevo, perché andavo perché il trasgressore andava troppo veloce, perché c'era troppo traffico, perché non c'erano le condizioni, sì, si può fare, teoricamente si può fare, il codice della strada articolo 201 lo consente, però essendo una, appunto, una infrazione di difficile accertamento, sarebbe sempre bene fermare subito il trasgressore in modo tale da confrontarsi direttamente con lui, altrimenti il trasgressore poi fa ricorso e ha una discreta probabilità anche di vincere, perché è una situazione piuttosto incerta, diciamo così. In ogni caso non è un'infrazione che si possa accertare in automatico, come si è scritto, c'è stata circolata anche un'altra bufala che un certo tipo di telelaser munito di un super cannocchiale riuscisse, allora, l'apparecchio esiste ma non viene utilizzato utilizzato per questo, può al limite essere utilizzato, ma sempre in quest'ambito, cioè non in automatico, cioè la pattuglia deve comunque fermare il trasgressore e dice: guarda, ti ho visto con i miei occhi col super cannocchiale del telelaser mentre commettevi questa infrazione, che equivale a quando la pattuglia è in movimento, ti affianca, ti guarda nell'abitacolo e ti spaletta, ti fa fermare per, certo, dire: guarda che stavi parlando al cellulare. Il tema è comunque di grande attualità, non bisognerebbe naturalmente praticare questa abitudine perché è pericolosa, e sicuramente non sappiamo quando entrerà in vigore il ritiro immediato della patente per l'uso indiscriminato del cellulare, ma sappiamo di certo che gli incidenti stradali appunto sono in vistoso aumento per questa abitudine. L'unica sanzione certa è l'incidente, ecco. Dico sempre, al di là delle sanzioni vere o finte oppure anche solo teoriche, perché ripeto, poi i controlli, questa non è un'infrazione appunto controllabile in automatico, per cui è tutto legato alla presenza di agenti per le strade che, ahimè, latita parecchio, perché gli organici delle forze dell'ordine sono in perenne sofferenza e vanno sempre più soffrendo. E insomma, visto che l'auricolare ce l'abbiamo tutti. Ecco, attenzione però all'auricolare. Dici un po'. Ecco, perché si sono diffusi negli ultimi anni questi fantastici auricolari a due cuffie, dove potete tappare entrambe le orecchie, che sono ottimi per non farsi disturbare dall'ambiente esterno, però quando siete in auto dovete, se avete questo auricolare a due cuffie, dovete metterne solo una, perché altrimenti siete sanzionabili esattamente come se parlaste senza l'auricolare. Questa è una cosa che si dimentica, perché tra l'altro è un divieto che risale al 92 quando si usavano i Walkman, però il principio è lo stesso, certo. Dobbiamo avere l'uso di almeno un orecchio per sapere cosa ci capita attorno. Senti, il viva voce con la nuova tecnologia del Bluetooth ci salva da tutto o no? Ah, quando funziona sì, il problema è che diciamo a distanza di tempo, diciamo da quando si è diffuso di serie su molte auto veicoli, anche assolutamente alla portata di tutti, si scopre che ci sono delle incompatibilità fra determinati Bluetooth e determinati cellulari, per cui c'è gente che ce l'ha ma purtroppo non li serve. No, io dicevo ai fini comunque della regolarità della nostra guida. Sì, assolutamente sì, tra l'altro dal punto di vista pratico hanno il vantaggio di poter essere spesso azionati con comandi al volante, quindi senza staccare le mani dal volante, e tra l'altro il nome del chiamante appare sul cruscotto, per cui non bisogna distrarre lo sguardo verso il telefonino che sta da un'altra parte. Quanto sei rigido, mamma mia! Ci vuole. è bravo Maurizio. Bravo. Senti Maurizio, detto questo, insomma, per il ritiro immediato della patente per chi usi il telefonino mentre guida, quando sapremo se prima o poi sarà una norma certa, diciamo entro l'estate 2017, diciamo entro l'estate potrebbe essere il debutto. Devono trovare il modo per inserirlo appunto in un veicolo legislativo, si chiama così, cioè in pratica il primo provvedimento che passa al Parlamento e che abbia un'alta percentuale di essere approvato, alta percentuale che in questo momento col marasma politico che c'è, insomma, non è facile da conseguire. Certo. Uno dei provvedimenti blindati è la manovrina, altrimenti si può fare il solito decretino legge estivo su questione di codice della strada, che tanto fanno parlare i giornali, non c'è tanta animosità politica su questo, in fondo sono tutti d'accordo e si può la fare, modalità si fa si anche trova una bella figura. Senti, insomma, andiamo invece un po' a questa novità relativa al divieto di sorpassare i ciclisti, perché pure questo è un altro tema di grossa conflittualità sulle strade fra gli automobilisti. Io peraltro, avendo la bicicletta dall'anno scorso, mi sono trovata adesso a vivere anche la storia da parte di chi guida le due ruote, no? Effettivamente mi sono resa conto che a Milano bisogna stare molto attenti, che effettivamente bisogna stare molto accorti rispetto alla vicinanza delle auto, e non è che siamo pieni di piste ciclabili, qua bisogna essere anche attenti a dove si va, quindi tema molto caldo. Allora, che cos'è questa nuova anche norma? Anche ai pedoni che... però. Assolutamente, avendo vissuto la doppia, ecco, la tripla veste del conducente di auto, di bicicletta e di pedone, naturalmente qua tutti hanno ragione. Naturalmente. Sui marciapiedi vanno ad una velocità pazzesca. Abbiamo fatto anche una trasmissione apposita, sì, forse la dovremmo rifare perché è divertente. Se volete ci aggiungiamo anche gli acceleratori di andatura, gli overboard, le novità, quelli che elettricamente vanno sui marciapiedi, lì non si può andare, ben inteso, è vietato e non sempre, anzi quasi mai questo viene spiegato. Io ho avuto anche un dibattito piuttosto animoso sul mio blog su questo, perché la gente non ci crede, però sono vietati. Il fatto che siano diffusi e nessuno dica nulla, non vuole assolutamente dire, ma su strada pubblica oppure sul marciapiede sono vietati, non sono ammessi, per il codice della strada non esistono nemmeno, magari nessuno vi farà una multa, però in caso di incidente poi se fate male a qualcuno sono dolori. Certo, stiamo chiudendo, Maurizio, allora spiegaci bene, poi in un'altra puntata faremo la questione dell'RC auto e che circola senza assicurazione, ma questo è già stato un tema di cui abbiamo parlato molto spesso. Quindi sarà vietato sorpassare i ciclisti se... se non c'è uno spazio laterale di almeno 1,5 metri, che è una condizione su tantissime strade, non solo urbane, è una condizione assolutamente irrealizzabile, è una misura demagogica, peraltro è difficilissimo andare a misurare quant'è questo 1,5 metri, per cui è una norma, parte dallo sportello aperto al pedale, effettivamente è lo specchietto, dove, è lo specchietto dove lo mettiamo. Maurizio, grazie per averci dato le tue ultime novità, quelle che dovrebbero entrare in vigore con questo nuovo restyling del codice della strada. Attenzione soprattutto alle fake news, sono tutte novità che arriveranno a breve ma che non sono già operative. Detto questo, col telefonino state comunque attenti, perché e comunque questa... noi vi saremo per te. Bravo, tu chiamaci che scendi al volo e ci racconti tutto. Allora, quando voi scendete dalla macchina, o meglio, quando tornate a casa, così sì, ce la prendiamo con calma questa sera, anche perché c'è il weekend che ci aspetta, osservate la vostra pelle, fatelo con attenzione, perlustratevi o fatevi perlustratevi da qualcuno che vi è particolarmente vicino, palmo a palmo. Tra l'altro domani è la giornata delle mani e le mani saranno proprio anche un tema che affronteremo oggi. Osservate macchie, macchiette, macchioline, chiare, scure, piccole, in rilievo, piane, non avrete difficoltà a trovarle perché nessuno è senza macchia, ma ci sono macchie e macchie. Noi oggi vi invitiamo a controllare le vostre, ma anche vi aiutiamo a farlo, perché finalmente in studio è tornato a trovarci il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis e del gruppo ospedaliero San Donato, che ci racconterà anche di una bella iniziativa. Professore, è finito il professor Di Pietro in una sediolina che sembra la sediolina di il seggiolone qua. Vero, praticamente. Di mammolo, direi. Di mammolo. Allora, se vuole fare un salto, andare a capotavola, intanto io intrattengo i nostri amici che ci stanno vedendo, perché siamo in diretta Facebook, e così intanto vediamo gli spostamenti anche del professor Di Pietro. Mammolo non gliel'aveva mai detto nessuno, Mi sentivo un po' lillipuziano, però adesso ma sì. Anche i lillipuziani hanno le macchie, perché professor Di Pietro, nessuno è senza macchie. Sì, e senza certo. Paura. Allora, certo. Professore, bene. Quindi oggi parleremo di un'iniziativa, lei faccia un'anticipazione, perché i nostri ascoltatori attendono da lei delle indicazioni, ma racconteremo anche di questa bella campagna adesso per i Lombardi, ma che poi sarà fatta più in grande per tutta l'Italia nelle prossime edizioni. È un'iniziativa che coinvolge i farmacisti e i dermatologi, gli specialisti oncologi anche, per una prevenzione sul melanoma. Macchia senza paura è il titolo, perché non bisogna aver timore nel far vedere le macchie allo specialista della pelle, in questo caso il dermatologo, perché è la maniera più efficace per fare una prevenzione e combattere ed eliminare in tempo questo tumore molto cattivo che è il melanoma, ma che è anche il più stupido, tra virgolette, perché si mostra fin dall'inizio, è anche quello più ingenuo, tutto sommato, perché si mostra fin dall'inizio ai nostri occhi, e quindi toglierlo in tempo vuol dire salvarsi la vita. Allora, intanto voi date un'occhiata, naturalmente, se non siete in macchina, ma se ci state ascoltando dal vostro ufficio, 800 24 00 24. Intanto vogliamo commentare, non poteva non farlo, la notizia sui vaccini. Avete letto che il ministro della salute Lorenzin ha dichiarato di aver pronto un decreto sull'obbligo di vaccinare i bambini prima di iniziare le scuole elementari. Palazzo Chigi chiarisce che oggi non c'è alcun testo ufficialmente all'ordine del giorno, ma sappiamo anche, abbiamo letto, abbiamo sentito che la responsabile dell'istruzione Valeria Fedeli, tra l'altro c'è un comunicato proprio stampa disponibile sul sito del MIUR, si è espressa per sicuramente la tutela di bambini e bambine, quindi l'obbligatorietà delle vaccinazioni, però ha sottolineato che si deve trovare il modo per garantire al contempo anche il diritto costituzionale all'istruzione. Allora noi abbiamo in linea il professor Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano, autore del libro Il vaccino non è un'opinione, che chiamiamo spesso ai nostri microfoni quando parliamo di vaccini. Professor Burioni, grazie. Grazie a voi, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Professore, allora, obbligatorietà dei vaccini e diritto costituzionale all'istruzione. Entrambe questi diritti costituzionali devono essere garantiti, insomma, ci sarà da lavorare e anche da discutere. Sì, cominciamo però col dire che in Italia ci sono ogni anno 1500 bambini che si ammalano di tumore e che non si possono vaccinare. E questi bambini, se vanno a scuola presenza di persone, no? di altri bambini non vaccinati, rischiano la vita. Quindi questi 1500 bambini che non si possono vaccinare non hanno il diritto di studiare. Io comincerei col difendere il loro, quello di poter andare a scuola, vivere la loro vita in tutta sicurezza dopo una bruttissima avventura. E io ritengo che questo diritto sia prevalente rispetto a quello di alcuni genitori di non vaccinare i figli sulla base di bugie che sono solo delle pericolose superstizioni. Questa è la mia opinione. Grazie professor Burioni. Ricordiamo quali sono i vaccini obbligatori? Ma guardi, io direi che bisogna superare questa questione dei vaccini obbligatori, perché i vaccini obbligatori sono soltanto tetano, poliomielite, ferite ed epatite B, ma non è obbligatorio il vaccino contro il morbillo. Il morbillo è una malattia molto pericolosa. Prima delle vaccinazioni morivano in Italia 300 bambini all'anno, e il morbillo può essere letale per un bambino, per esempio, che è stato malato. Qui in Lombardia un bambino di 18 mesi aveva la leucemia linfoblastica acuta, 90% di possibilità di salvarsi, 2-3 anni fa ha preso il morbillo e è morto. Quindi superiamo obbligatorie e facoltative. Bisogna vaccinarsi con tutti i vaccini, che sono i farmaci più sicuri e più efficaci che abbiamo. Professor Burioni, ci sentiremo presto, ne sono certa, perché i vaccini continueranno, purtroppo dico io, a fare discutere, ma comunque continuando a fare informazione si arriverà anche non solo a sensibilizzare ma a educare anche la popolazione. Naturalmente noi siamo a disposizione. Grazie professor Burioni, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. E noi torniamo a noi, alle nostre mani, ma soprattutto prima ancora alle nostre macchie. Professor Di Pietro, non dobbiamo avere paura delle macchie, ma dobbiamo intercettare precocemente quelle a rischio per individuare precocemente il melanoma, che tra l'altro, come lei ha anticipato, è una malattia in crescita. Che cosa succederà in Lombardia, o meglio, a chi... delle persone che ci stanno ascoltando vive tra Milano, Lodi e Monza? C'è una bella iniziativa che passa attraverso anche le farmacie e vede coinvolti due grandi istituti, il Dermoclinico Vita Cutis e l'Istituto Nazionale dei Tumori. È una, direi, una campagna che parte quest'anno, ma andrà molto bene, sono certa, e quindi poi si aprirà tutto il territorio nazionale. Sì, è una importante sinergia che l'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, l'Istituto dei Tumori e le farmacie di Milano, Lodi e Monza stanno attuando. Sarà possibile oggi andare nelle farmacie delle città che abbiamo appena detto, Milano, Lodi e Monza, e sottoporsi ad un test per verificare se le macchie o i nei che si hanno sulla pelle possono essere pericolosi o no. È un semplice test con 10 domande e delle risposte a cui verrà dato un punteggio. Se si supera un certo punteggio scatta un allarme rosso che obbliga, tra virgolette, o consiglia vivamente di farsi vedere dallo specialista, dal dermatologo. A questo punto ci saranno 500 visite gratuite che verranno effettuate dall'Istituto Dermoclinico e dall'Istituto dei Tumori i prossimi due sabati, quindi sabato 20 e sabato 27. Nel caso poi che ci sarà una lesione, un neo da togliere, questo verrà tolto attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, quindi una campagna del tutto gratuita che abbiamo deciso di intraprendere per quest'anno, che sarà di carattere locale, regionale, quindi riguarda la Lombardia, ma dal prossimo anno si estenderà a livello nazionale. Professor Di Pietro, quindi soprattutto l'invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli, ma in modo particolare, a partire da che età è bene farsi controllare i nei, le macchie, per non averne paura, per intercettare precocemente il melanoma? Ci sono delle persone che hanno un profilo di rischio maggiore, penso alle persone che hanno ad esempio la pelle chiara, hanno tanti nei, hanno casi in famiglia? Sì, sicuramente. Allora, l'età è dai primi anni di vita. Ecco, quando c'è un neostrano fin dai primi anni di vita è sempre opportuno farlo vedere a un dermatologo. L'età in cui il melanoma appare con più frequenza è tuttavia tra i 20 e i 40 anni, quindi questa è una fascia di età ancora più a rischio. Quando si ha la pelle chiara, si hanno numerosi nei, occhi chiari, questo si è visto secondo le statistiche che è un altro fattore di rischio. Così come anche le ustioni frequenti che si sono subite nel corso della vita con esposizioni solari e abbronzature selvagge. Ecco, l'ustione. Guarda, vedi che guarda, però adesso il professor Di Pietro, così dica la salutiamo. Niente, guarda, che ne ho combinata guarda, una anche, ecco, guarda anche con attenzione la nostra ospite con cui il professor Di Pietro condividerà la seconda parte di trasmissione, la dottoressa Simonetto Della. Vi ho anticipato che domani si festeggia la giornata della mano e parleremo proprio di mani, che, dove ci sono anche delle macchie, professor Di Pietro, di altro tipo, insomma, macchie che raccontano un po' anche i nostri anni. La maturità. Bravo, dottoressa Della. Buongiorno. Buongiorno, chirurgo della mano Alpini di Milano. Mi piace, fa anche rima. Noi invece, chissà se ci fai una rima con i mercati. Andiamo, poi torniamo. Mamma mia, non mi viene intanto in mente i miei colto di sorpresa. No, ma intanto pensaci che io do i compiti, perché dobbiamo fare le maestrine, i compiti ai nostri amici da casa. Allora, in questa seconda parte di trasmissione, naturalmente continueremo insieme al professor Di Pietro, che ci sottoporrà alcune domande di questo questionario che verrà distribuito nelle farmacie che aderiscono a questa iniziativa temporaneamente lombarda Macchie Senza Paura, perché così ci darà un po' un modo per guardare e osservare le nostre macchie. Ma parleremo anche di mano, perché ci occuperemo della funzionalità della nostra mano, ma anche dell'aspetto. E quindi facciamo un organo, la mano a tutti gli effetti, facciamo pelle e ossa e ci stiamo, no? E anche articolazioni. Voilà, mercati, andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCchianciano.it. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme in uno studio affollato che potete guardare, perché siamo in diretta Facebook. Parliamo di mani insieme alla dottoressa Della, perché domani è la quarta edizione della Giornata Nazionale della Salute della Mano, e la quinta forse, sì. Scusate, sono rimasta indietro un anno, così mi tolgo un anno, è sempre una bella cosa, e questa è un'altra macchiolina. E, per questo, insieme alla dottoressa Della, oggi affronteremo i problemi più diffusi delle mani, guarderemo naturalmente il loro aspetto, come funzionano, magari provando proprio a partendo da una stretta di mano, che tra l'altro è il nostro biglietto da visita. Ho letto che anche ai colloqui, durante i primi colloqui, chi ti esamina, dal modo in cui stringi la mano, professor Di Pietro, lei è d'accordo? Io sono d'accordissimo. Cioè, sei troppo... A Napoli si dice la manolla, no? Quando si stringe la mano con le dita un po' molle, ecco, direi che c'è la manolla, c'è la mano morta, c'è quella che sguscia perché magari è molto sudata. Parleremo di iperidrosi. Ma ad un ortopedico, o meglio ad uno specialista della chirurgia della mano, perché la mano è proprio un organo che ha il suo chirurgo ad hoc, che cosa racconta la stretta di mano? Beh, già dalla stretta di mano possiamo capire se è una mano sana o no, perché se non è sana potrebbe avere del dolore. Quindi già quando stringiamo la mano al nostro paziente, quando entra nel nostro studio, vediamo che anziché stringercela la retrae, perché sa che alla stretta potrebbe provare dolore. Oppure potremmo vedere che ha una mano che non ha tanta forza. Già tante cose possono esserci. Allora, quindi pronti con la vostra stretta di mano? Perché tu come la stringi? A me sembra vigorosa, senti un po'. Ma sì, no, è mi vero. Piace, beh, mi piace, non, mi piace. Non bisogna stritolare. La manolla non la sopporto. No, non bisogna stritolare l'altro. Perché ce l'ho anche ci sono. Però direi adeguarsi alla stretta di mano dell'altro. Professore, lei che dice? Sì, una bella stretta di mano sana, pulita, vigorosa, trasmette tutto. Guardandosi magari negli occhi. 800240024, voi invece guardatevi le mani, parliamo delle mani, della loro pelle anche, del dorso e del palmo. Sono due tipologie di pelle, sembrano assolutamente diverse, professor Di Pietro. Sì, sì, ma sono anche diverse dal punto di vista anatomico. La pelle della superficie del dorso delle mani è più sottile, quella del palmo invece è più ricca di cheratina perché è la parte del nostro corpo con cui noi afferriamo, tocchiamo continuamente e quindi deve avere per la sua funzione una maggiore resistenza, no? La parte invece superficiale è più sottile e anche più elastica perché quando la mano si piega deve la pelle adeguarsi e quindi dal punto di vista anatomico sono diverse, con problemi diversi. Allora, subito i nostri ascoltatori, Maurizio da Verona, Andrea dalla provincia di Vercelli, e intanto provate a facciamo un esercizio anche per le mani, dottoressa Della. Abbiamo suggerito la stretta di mano, ma noi possiamo ad esempio osservare come si appoggiano le mani alla scrivania. Se riusciamo a appoggiare completamente il palmo delle mani al nostro tavolo, se abbiamo per esempio delle dita che rimangono bloccate quando le pieghiamo e facciamo fatica a estenderle con dolore, o se proprio non si estendono del tutto. I motivi possono essere diversi a seconda delle diverse condizioni. Chiamateci se le vostre mani prudono, ma soprattutto anche se formicolano. E dato che noi ci allarghiamo sempre oltre ad occuparci della mano, parleremo anche del nostro polso. Maurizio, buongiorno da Verona. Buongiorno a voi, un piacere parlarvi e stare con voi al telefono. Io ho un problema di questo genere, allora è da un paio d'anni circa che vado sempre a farmi controllare i miei. Quest'anno, l'anno scorso me l'avevano tolto uno, quest'anno mi ha detto tutto ok, solo che durante una di queste notti mi sono grattato un neo che ce l'avevo sulla gamba e adesso l'ho visto che c'è una leggera grossicina. E allora abbiamo detto, sentiamo un po' il professor Di Pietro. Professor Di Pietro, allora, questa è una delle domande che compaiono nel questionario che distribuirete? Infatti, questa è una delle 10 domande che ci sono nel questionario. Graffiare un neo non è un grosso pericolo, quindi si può stare tranquilli. Si graffia, la pelle poi dopo ripara, insomma, questa ferita e tutto finisce lì. Diverso è se noi graffiamo un neo tutte le settimane per 10 anni. Ecco, allora questo sicuramente diventa un fattore di rischio. Ma un graffio, una tantum, una piccola anche abrasione... Anche un taglietto non è quando un grosso... mi fate la barba? Ecco, allora, se c'è un neo sul viso e viene continuamente traumatizzato, bisogna stare attenti, oppure se proprio si taglia tutte le volte, allora lì forse bisogna valutare la possibilità di toglierlo. Quindi un graffio, una tantum, non c'è nessun rischio, si può stare completamente tranquilli. Qualche altra domanda che l'appetito, come si dice, viene mangiando e dà modo anche ai nostri ascoltatori di valutare se... sottoporsi ad un controllo. Certo, ci sono domande che fanno subito scattare un allarme rosso quando si risponde sì. Ad esempio, hai visto apparire un nuovo neo e in poco tempo si è ingrandito? Allora questo, se avviene, chiaramente diventa così, fa scattare già subito un allarme. Quindi un neo che non c'era. Un neo che prima non c'era, e quindi cresce. Compare questa macchia che cresce piuttosto rapidamente. Poi se hai un neo che negli ultimi tempi ha cambiato colore, ecco, il cambiamento di colore è un altro fattore di rischio, oppure se è diventato irregolare e frastagliato, quindi cresce ma non in maniera uniforme, regolare, ma tutto frastagliato in maniera irregolare, quindi un altro fattore di rischio. Ecco, un'altra cosa piuttosto interessante è se si hanno tanti tatuaggi. Ultimamente noi dermatologi riteniamo un fattore di rischio i tatuaggi molto estesi. È un fattore di rischio perché i tatuaggi, se sono molto estesi, nascondono la comparsa del melanoma, poiché il melanoma noi lo vediamo quando appare. Se il melanoma insorge sotto un tatuaggio non riusciamo a vederlo, allora ce ne accorgiamo quando purtroppo poi è troppo tardi perché ha già dato metastasi. Allora il tatuaggio, soprattutto quello maori, no? Quelli sono molto estesi, quelli neri, scuri, che occupano grandi superfici di pelle, quelli sono un fattore di rischio. A volte un neo può essere circondato improvvisamente da un alone bianco. Sì. Ecco, ci sono dei nei che subiscono un po' questa evoluzione, si circondano di un alone bianco, sembra quasi un uovo fritto, quindi c'è la parte centrale che è il neo, tutto intorno a questo alone bianco. Questo è un particolare neo, si chiama neo di Sutton, è il dermatologo che decenni fa l'ha descritto, ed è un neo che sparisce. Questo alone bianco pian piano poi dopo interessa anche il neo al centro, il neo sparisce, rimane questa inghiottito. Macchiolina bianca, sì, viene proprio assorbito, inghiottito, ecco, non è pericoloso, quindi anche se è una cosa un po' curiosa, strana vedere questi cambiamenti di colore, questo invece è un neo tranquillo. Allora ci fermiamo, abbiamo poi Alessandro dalla provincia di Pisa che ci porta ad affrontare l'altro tema che oggi impegna la dottoressa Odella, e la salute delle nostre mani, in particolare Alessandro ci porta a parlare di dita, strada e poi di nuovo insieme. Cuore e denari. Ma dove siamo? Siamo a Cuore Denari, ma in studio. Qua si chiacchiera. Cambio incrociato di diagnosi e consulenze. Organizzare anche un aperitivo, un caffè. Così. Ma guarda, lo sai che ci siamo. Venite a trovarci. Alessandro, dalla provincia di Pisa, buongiorno. Per la Simonetto Della, ci spostiamo sull'altro tema, le mani. Ma anche le mani, sulle mani ci sono anche le macchie. Alessandro, allora. Buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti a tutti, vi ascolto sempre. Bravo. Veramente in gamba. Stavo dicendo una cosa, io la mia professione è faccio l'idraulico e mi sto trovando ora a quest'età che mi è venuto sull'alluce e sul mignolo come se mi si è bloccato, non riesco più a chiuderlo, come se il nervo all'interno non scivolasse nella sua guaina e non riesco più a stringere, a fare forza. Va bene, e questo che è per un idraulico, le mani sono sempre importanti per tutti, però ci sono alcune professioni che le mani le usano davvero, parecchio. Sono quasi strumenti di lavoro. Noi chirurghi li usiamo come strumenti di lavoro, esatto. Ma dunque Alessandro probabilmente ha sviluppato una tendinite dei flessori sia del pollice che del mignolo, e che è una patologia particolarmente dolorosa. Quando il tendine si infiamma si riduce lo spazio di scorrimento al di sotto della troclea, che è un ponte di fibre che sovrasta questi tendini flessori, e quindi una volta flesse le dita si fa fatica a estenderle nuovamente, se non con una manovra un po' dolorosa. È tipico di chi usa tanto le mani ed è proprio un processo infiammatorio su base meccanica. Per fortuna può essere curato in modo conservativo, di solito guarisce senza trattamento chirurgico già nel 70% dei casi, quindi insomma buone notizie, nulla di grave da quanto ci descrive Alessandro. Allora, domandone che torna sempre, dottoressa Odella, quando arriva lei, e cioè chi sente la necessità di schioccare le dita, ecco, fa male perché è un segnale che le nostre articolazioni ci mandano, è un vezzo, un'abitudine, ognuno fa quello che vuole, invece no. Dottoressa Odella. Beh, non schioccarle sarebbe meglio, perché non sollecitiamo le articolazioni a degli stress inutili, è inutile andare a spingere l'articolazione oltre la propria normale escursione articolare. Non è nulla di grave, non è nulla di patologico, alle volte lo facciamo quando siamo magari un po' nervosi e tendiamo a scrocchiare le articolazioni delle nostre dita, delle nostre mani per scaricare tensione e stress. In generale non è una pratica consigliabile, non fa malissimo, ma evitare di farlo forse è meglio. Dottoressa Odella, chirurgo della mano, adesso la chirurgia è sempre più gentile, è vero, riuscite a risolvere anche problemi, patologie che interessavano le articolazioni, ma anche penso proprio la mano, il cuore della mano, che possiamo considerare il palmo, in modo molto più gentile e meno invasivo. Qual è la novità degli ultimi anni, quella che ha cambiato un po' anche la sua vita in sala operatoria e anche naturalmente quella del paziente per il recupero? Beh, a seconda delle patologie abbiamo sicuramente nel tempo sviluppato delle tecniche sempre meno invasive e ancora di più abbiamo imparato a curare alle volte le malattie senza arrivare alla chirurgia, al tavolo operatorio. Passi da gigante sono stati fatti per i malati di artrite reumatoide, le nuove terapie farmacologiche riescono veramente a ridurre il danno a livello dell'articolazione, quindi il nostro lavoro di chirurgo sicuramente si è ridotto. Ma non state con le mani in mano? No, perché ci sono con le mani in mano no, non stiamo. Tanti interventi, anche il tunnel carpale che, di cui i nostri ascoltatori già ci stanno chiedendo, è sempre necessario operare? Non sempre, il canale carpale alle volte non deve essere operato, diventa chirurgico, noi diciamo, come campanello d'allarme per il paziente quando il formicolio che di solito insorge durante il periodo notturno associato a dolore diventa saltuario anche durante i movimenti della giornata. Quando il formicolio si presenta anche di giorno, noi diciamo che è un po' la linea spartiacque, allora forse è meglio andare a decomprimere questo nervo che se rimane insultato per troppo tempo poi può avere delle lesioni non più recuperabili e quindi anche operato scompare il dolore, ma il formicolio periferico può persistere. 800 24 00 24, ultimi minuti per le vostre domande. Cominciamo con Andrea, anzi proseguiamo con Andrea dalla provincia di Vercelli, terra di risaie, vero? Abbiamo avuto anche il nostro anche esperto a Tutto Food. Tutto Food. Andrea, buongiorno. Sì. Buongiorno, niente, io avevo una macchia sulla mano, mi dicevano che era al sole, e poi mi sono bruciato e ho bucato sempre la bolla e mi è rimasta una macchia nera che non va più via da mesi. Allora fate un po' di, cioè Andrea, è un po' un fai da te, allora, vero? Si buca, sì, Andrea, ma stia fermo con quelle mani, anche esatto. Lei, benedetto uomo. Professor Di Pietro, sì. Allora, le macchie nella mano, sulle mani, vecchiaia, sole, si cancellano, facciamo finta di nulla? Sì, beh, le macchie sulle mani è molto frequente, fanno parte un po' del nostro crescere, del nostro maturare. Si possono eliminare molto facilmente con il laser. In alcuni casi sono di origine vascolare, sono cioè dei piccoli vasi capillari che si rompono, in altri invece è la parte più superficiale, la cheratina, che tende ad addensarsi, accumularsi in seguito ai ripetuti microtraumi che nel corso della vita si compiono. Non destano nessun problema, sono di solito in colore marrone, sono un po' ruvide, a volte si staccano dei pezzettini e poi si riformano e sono le classiche cheratosi delle mani. Da non confondere invece quando la macchia è liscia, quindi non è ruvida, quindi è un neo, e allora se questo neo vediamo che si ingrandisce, ecco, ritorniamo al problema e noi ritorniamo a ricordarvi che se vivete in Lombardia potete approfittare di questa bella campagna Macchie Senza Paura recandovi in farmacia oggi per il 12. Giorno oggi l'elenco delle farmacie è disponibile sul sito Macchie Senza Paura, immagino. Sì. Giusto? Macchie Senza Paura, certo. Abbiamo sono un minuto 800 farmacie. A proposito, per parlare anche di una macchiolina che possiamo notare sotto le nostre unghie. Attenzione, non sempre è il classico pestone. Esatto, ecco, ma guardiamola. Può essere un neo, quindi attenzione, perché se c'è stato un pestone, come dicevamo, e quindi un trauma, la goccia di sangue che rimane sotto l'unghia poi dopo tende ad annerirsi, e forma questa macchia, ma col tempo questa macchia cresce con l'unghia e va via, quindi scompare. Invece il neo rimane fisso, a volte crea una sorta di coda come una stella cometa, quel neo deve essere particolarmente tenuto sotto controllo, perché ci sono anche melanomi che insorgono sotto l'unghia e diventano pericolosi. No, non vedo macchie, almeno sotto le unghie. Dottoressa Odella, una chiusura con lei di meno di un minuto per una raccomandazione. Cerchiamo di fare un po' di prevenzione, di buona manutenzione delle nostre mani. Due consigli per chi ci sta ascoltando. Intanto non trascurarsi, se si hanno dei dolori, delle sintomatologie periferiche, dei formicoli o dei deficit di funzione, non aspettare che passi troppo tempo, ma farsi vedere da uno specialista. Qualunque patologia, se viene presa in tempi precoci, sicuramente è più facile da trattare e alle volte può essere trattata senza ricorrere al bisturi. Quindi magari andate dal chirurgo della mano e poi vi salutate con una stretta di mano, non c'è nulla da fare e quindi vi rimanda. Professor Di Pietro, grazie, finalmente l'abbiamo acchiappato. Dopo tanti inviti. Bene. È stato sempre un piacere. Dottoressa Della, torni grazie presto a trovarci per una puntatona tutta sul tunnel siamo carpale. State in ottime mani oggi, è proprio il caso magnifica. Di dirlo. Torniamo lunedì, io tra l'altro